fa un po' impressione, sinceramente, almeno a me ha fatto un po' impressione, la fotografia che campeggia a tutta pagina in testa al dorso milanese del Corriere della Sera giovedì scorso. Scattata la sera prima all'ottagono della galleria, rappresenta quello che una volta si chiamava il salotto di Milano, gremito fino all'inverosimile di cittadine e cittadini, e tutti intabarrati fino al collo per reggere a una temperatura che anche in quell'ambiente semiriparato non avrà superato i 3 o 4 gradi, rigidi come altrettanti stoccafissi e con l'occhio a palla incollato ai megaschermi sui quali veniva proiettato in diretta dal teatro alla Scala l'Idomeneo di Mozart. E l'opera che, come ricorderete, inaugurava quella sera la stagione di quello che si usa definire il massimo tempio dell'opera lirica. Un'immagine abbastanza impressionante, e se non impressionante tale comunque da suscitare qualche curiosità. Erano tutti indistintamente melomani quelle brave persone, disposte a sfidare clima e disagi per ascoltarsi un'opera che non è tanto facile trovare in repertorio. I commenti di stampa in genere li davano per tali e ne traevano anzi pretesto per celebrare l'alto livello della cultura musicale in città. Ma io con tutto il dovuto rispetto credo sia lecito dubitarne. Oddio, qualche melomane nella massa ci sarà stato, in proporzione maggiore probabilmente di quelli presenti in teatro, ma quello dell'opera seria settecentesca, di cui Idomeneo rappresenta un esemplare, non è poi, per una quantità di motivi storici e culturali in cui Mozart stesso ha la sua parte, un genere che oggi possa aspirare a una popolarità di massa. Presenta troppe difficoltà d'ascolto, nel senso che richiede, per essere adeguatamente apprezzata, la conoscenza di un certo numero di convenzioni piuttosto complesse, l'adesione a un sistema di criteri di valutazione che vanno un po' oltre la cultura corrente del medio appassionato di musica oggi, e compreso me che vi parlo, che infatti, mancando di quegli strumenti, ogni volta che me ne lascio coinvolgere finisco per trovarla irrimediabilmente noiosa. In effetti, a saper leggere un po' tra le righe le cronache della serata di Sant'Ambrogio, si capisce che una certa dose di noia deve essere serpeggiata tanto nella sala del Piermarini quanto in galleria Vittorio Emanuele. Per non dire il teatro dal Verme, dove l'assessore competente aveva invitato un pubblico di anziani a condividere la stessa esperienza, e del teatro degli Arcimboldi, dove, inchiodati di fronte ad analoghi megaschermi, si accalcavano certi non meglio precisati giovani. Ed è facile capire che tra tutti i più fortunati, nonostante il freddo e la scomodità, erano quelli della galleria, che almeno potevano andarsene quando volevano. Agli altri, poveretti, 4 ore abbondanti di arie, insiemi e recitativi non le ha tolte nessuno, e non tutti naturalmente potevano sostenersi con la prospettiva della cena di gala a Palazzo Reale, cui il Comune di Milano aveva invitato, a nostre spese suppongo, 300 VIP particolarmente vipposi. Gli altri avranno sofferto in silenzio, paghi di partecipare comunque a un evento, anzi a quello che per unanime sentenza dei media andava considerato l'evento per eccellenza di questa stagione. Perché oggi, lo avete notato anche voi, gli eventi culturali che contano non sono soltanto quelli che hanno perso l'aggettivo e acquisito in cambio la maiuscola. Quelli di cui per un motivo o per l'altro si parla molto prima che si realizzano, a cui chiunque, a prescindere dalla tipologia dell'offerta, si tratti di una rappresentazione musicale o teatrale, della pubblica lettura di un testo, dell'esibizione di un interprete o di una celebrità, o semplicemente della sfilata per le vie cittadine di un sommergibile montato su ruote, a cui chiunque può partecipare, al di là di qualsiasi problema di competenza e interesse. Quelli che possono combinare il massimo della passività con il minimo della competenza nella fruizione, aggiungendovi magari un certo livello di esibizione di sé, secondo i principi di quella che nel generale tracollo dei valori sociali sembra essere stata l'ultima delle virtù civiche praticabili, e come a dire il presenzialismo. Perché essere comunque presenti all'evento è forse l'unico imperativo che regoli oggi la vita associata, fatti politici compresi. La possibilità di ricavarne un messaggio, di metabolizzarlo ai fini della propria crescita spirituale, semplicemente di divertircisi, non interessa molto, ma molto meno. Certo, c'è partecipazione e partecipazione. Nell'impossibilità, o forse nella programmatica rinuncia, di assicurare a tutti lo stesso tipo di accesso, le autorità cittadine dando prova di una genialità di cui confesso non le avrei credute capaci, hanno optato a una partecipazione stratificata per classi e categorie sociali. Nella sala del Piermarini, al calduccio, in gran spolvero, i ricchi e i potenti. Al Dal Verme gli anziani, agli Arcimboldi i giovani, due categorie che notoriamente è bene tenere separate, e in galleria gli altri. L'immagine che ne esce è indubbiamente quella di una città ordinata, in cui ciascuno sa stare al proprio posto e in cui certe cadute di stile, come quella del presidente Berlusconi che ad autoinfliggersi l'audizione di un'opera lirica non riesce mai a rassegnarsi e in questa sua indifferenza alle pretese culturali riesce per una volta quasi simpatico, però spedisce spietatamente al Dal Verme la vecchia madre, o quella dell'assessore Maiolo che, sempre al Dal Verme, ha arengato gli anziani vi convenuti su quanto fosse stato brava a farli andare lì e poi se n'è andata a godersi l'opera alla Scala con i suoi pari grado, non si avvertono quasi. L'evento non è fatto per guardare gli altri ed eventualmente per giudicarli. Serve solo per mettere di esibire se stessi, è un fine a se stesso. È un tipo di accadimento cui il successo di conseguenza non manca mai.